624 persone. Rinascessi domani, vorrei essere un pittore. Sapere a memoria la tua luce. Inventarmi un colore per la voce. 3200 modi per fare finta di non essere confusa, di non sentirmi persa. Scusami il casino nella stanza. In fondo è pari pari la mia testa. C'è qualcosa di noi due, qualcosa di noi due, che mi ricorda l'etera. Liberami dal veleno, le mani piene zeppe di mercurio. Baciami di sera senza chiedere, arrampico sui muri come l'edera. Noi in questa nuova vita scriviamoci una storia per il cinema. Vuoi perderti nel buio della sala, fermiamoci ai titoli di coda. Provato a spiegare le pieghe rimanendo bruciato. Io vorrei sapere come piangi quando usi le tue mani come schermi. Negli appartamenti solo televisori accesi distanti sugli stessi canali. Invece tu spegni i segnali, interrompi dentro e fuori le tue connessioni. Liberami dal veleno, le mani piene zeppe di mercurio. Baciami di sera senza chiedere, arrampico sui muri come l'edera. Noi in questa nuova vita scriviamoci una storia per il cinema. Vuoi perderti nel buio della sala, fermiamoci ai titoli di coda. Io voglio luce e tu aria. Facciamo una casa in un vaso di carta. Tu sei la radice e io l'acqua.